perché le fondazioni, avendo un obiettivo tra virgolette no profit, sicuramente avrebbero spinto per investimenti tranquilli. Questo non è assolutamente vero, perché non solo lo hanno dimostrato i fatti con il Monte dei Paschi di Siena, ma anche perché poi le fondazioni comunque hanno dei dividendi dall'attività della banca, e quindi chiaramente per dare maggiori dividendi e utili alle fondazioni i manager bancari fanno anche delle operazioni spericolate. Poi c'è il discorso che queste operazioni spericolate stanno all'interno di un processo di accumulazione finanziaria che vede in questi derivati, in queste operazioni collaterali a rischio, una dinamica che ormai consueta che è dappertutto nel sistema bancario. Però le fondazioni sicuramente hanno avuto un peso all'interno di questa vicenda del Monte dei Paschi. Sono un ibrido, perché quando sono state costituite era il momento in cui le banche pubbliche, che prima erano tutte dell'IRI, dovevano essere privatizzate. Per renderle più appetibili agli eventuali investitori stranieri hanno diviso praticamente le funzioni, da una parte l'attività bancaria appunto, e dall'altra queste holding pubbliche che comunque detengono, gestiscono un pacchetto di controllo della banca. E quindi è stato un processo estremamente ambiguo, e che serviva semplicemente a mantenere il potere politico all'interno della gestione della banca. Poi, per quanto riguarda il Monte dei Paschi di Siena, un altro aspetto del problema è alle sue radici proprio nell'onda speculativa che poi ha portato al tracollo nel 2008 della Lehman Brothers e tutto quello che è successo. Si è parlato molto, si parla molto sui giornali di questa acquisizione di Antonveneta. Infatti, quello è il peccato originale, diciamo così, per certi versi, perché nel 2008, questo era già nella gestione Mussari, che poi dopo tutte queste belle operazioni è stato premiato, è diventato il presidente dell'ABI, ha portato a compimento un contratto collettivo nazionale per quanto riguarda il settore disastroso per i lavoratori. Quindi diciamo così che poi questo è anche un aspetto di cui bisognerà parlare, perché questa situazione nel Monte dei Paschi ha avuto una ricaduta pesantissima sui livelli occupazionali dei lavoratori del Monte dei Paschi. Si parla di 4.600 esuberi, e questa è una cosa che per esempio non è assolutamente uscita fuori dai giornali. E quello è un aspetto, insomma, sai, il capitale umano tu mi insegni poco, che non conta niente, no? In questo caso conta poco. E quindi nel 2008 Monte dei Paschi compra Antonveneta e la paga quasi 10 miliardi di euro, che è un prezzo spropositato per un istituto che oltretutto aveva già di suo delle difficoltà. Da chi lo compra? Dal Banco Santander, che all'epoca era guidato da tal Gotti Tedeschi, che poi diventerà presidente dello IOR, e fu cacciato dallo IOR perché coinvolto in scambi di riciclaggio di denaro. Con questo acquisto l'Antonveneta chiaramente ha costretto sia il Monte dei Paschi sia la fondazione a liberarsi di asset, cioè significa praticamente di vendere investimenti per riuscire a ottenere la liquidità per fare questa acquisizione. E questa operazione ha lasciato dei pesanti conti, dei pesanti tracce sui conti del Monte dei Paschi. Però all'epoca Banca d'Italia, e c'era Mario Draghi, ha accettato questa operazione, ha dato il beneplacito. Quindi diciamo così, adesso Banca d'Italia, c'è tutta questa polemica su chi doveva controllare, se Banca d'Italia, però Banca d'Italia conosceva perfettamente qual era la natura di questa operazione, e Draghi non ha detto nulla all'epoca. E a quel punto si innesta questo meccanismo per cui si crea il buco di bilancio e si utilizzano derivati, cioè questi strumenti finanziari speculativi, per rimediare ai buchi di bilancio. Ecco, puoi spiegarlo meglio se ci riesci, questo, cioè la domanda che uno si fa, dice: ma se io ho un debito in una società, c'ho un buco di bilancio, ma come faccio a coprirlo a questi livelli? Insomma, qual è il meccanismo, il trucco, diciamo così? Beh, diciamo che lo nascondi. E come fai a nasconderlo? Da una parte sottoscrivi un investimento diciamo così che ti dia degli utili, cioè che ti faccia guadagnare, in modo che così questi guadagni vengono in qualche maniera sostituiscono il buco di bilancio. Dall'altro cerchi di questo buco di bilancio di diluirlo in un arco temporale lungo, cioè il meccanismo per esempio che ha fatto il Monte dei Paschi rispetto al bond di Alexandria, perché poi questi strumenti derivati hanno dei nomi di fantasia, uno si chiama Alexandria, l'altro si chiama Santorini, insomma c'hanno anche questa... Come si chiama uno? Santorini? Santorini si chiama, sì, quello che gli è avvenuto alla Deutsche Bank si chiama Santorini. E in pratica funziona più o meno, funziona così, che questi CDO, si chiamano così perché sarebbe collateralized debt obligation, insomma sono strumenti finanziari, diciamo che hanno una leva finanziaria molto elevata, e quindi fanno guadagnare molto e velocemente, ma quando sono in perdita fanno guadagnare e fanno perdere tanto e altrettanto velocemente. E in pratica con questo bond che loro hanno acquistato nel 2005, questo Alexandria, dalla Dresden Bank, dentro questo derivato, questo prodotto, c'era un po' di tutto, era un titolo tossico sostanzialmente, che dopo il crack della Lehman Brothers del 2009 perde più del 50%, quindi praticamente il valore originale era 400 milioni, con questo titolo loro pensavano in qualche maniera di mettere una pezza a questo buco di bilancio, e invece gli eventi della finanza internazionale hanno fatto sì che praticamente questi 400 milioni si riducessero di 200 milioni, e quindi c'era un ulteriore buco. A questo punto dovevano far scomparire la perdita, e come hanno fatto? Hanno fatto un altro investimento con la banca giapponese Nomura, che praticamente a loro hanno venduto il derivato e hanno comprato in cambio dei BTP trentennali, cercando di spalmare questa perdita in 30 anni. Però questi soldi loro non ce l'avevano e si sono fatti prestare sempre dalla banca giapponese, con un contratto che si chiama di pronti contro termini, in cui praticamente ci guadagna solamente la banca giapponese. E tutta questa operazione poi era supportata da un contratto segreto che era custodito in cassaforte, senza il coinvolgimento delle società di revisione. Quindi più o meno questo è il meccanismo, detto in parole povere, non so se è stato chiaro, però insomma a un buco si aggiunge un altro buco sostanzialmente, questo è il tentativo insomma che hanno fatto per cercare in qualche maniera di metterci una toppa rispetto all'operazione principale, che è stata quella dell'acquisizione di Anton Mehta. Acquisizione di Anton Mehta che è stata fatta nel 2008, mentre invece questi derivati avevano già cominciato a prenderli nel 2005, quindi loro quando hanno comprato Anton Mehta già avevano problemi di bilancio. E quindi una cosa che poi si è oltretutto che è continuata, perché appunto con quest'altra operazione con la Deutsche Bank che si chiamava Santorini, hanno comprato sempre un altro derivato per proteggersi da un altro investimento che avevano fatto sbagliato, cioè loro avevano acquistato il 3% del capitale di Intesa San Paolo, per proteggersi dalla discesa del valore delle azioni di questa intesa, dell'Intesa San Paolo, hanno comprato questo derivato della Deutsche Bank, che aveva già inguaiato con questi derivati il Comune di Milano, c'è proprio una sentenza di condanna nella banca tedesca. E la perdita di questa operazione si aggirano tra gli 87 milioni nel 2008 e i 61 milioni nel 2009. Quindi praticamente il Monte dei Paschi ha accumulato fra il 2011 e i primi 9 mesi del 2012 6 miliardi di perdite, e insomma hanno fatto un buon lavoro da questo punto di vista. Senti, scusami, tu hai parlato di questo contratto segreto, no? Qui, chiuso in cassaforte, quindi sembrerebbe che l'ABI, quando dice che non ha potuto controllare Banca Italia, eccetera, in un certo senso sia vero, però c'è anche il fatto che sto Mussari, non so come si dice, viene proprio, che è quello che è appunto dimissionario in seguito allo scoperchiamento della pentola, viene però proprio dal Monte Paschi, nel periodo quantomeno, in una parte del periodo che ha visto tutte queste operazioni che tu hai descritto. Quindi quali sono gli interessi che si intrecciano a questo livello? È vero quello che dice Banca Italia, che dice l'ABI? Ma guarda, i controlli, il problema di fondo è che queste pratiche erano pratiche almeno fino a quando non c'è stato il crack della Lehman Brothers ordinaria, cioè lo facevano, e nel processo di accumulazione finanziaria, che poi se vogliamo ampliare il discorso potrebbe anche essere un aspetto dell'accumulazione originaria che si sta creando in questa nuova fase di sviluppo del capitalismo, queste cose c'erano, cioè era non dico normale, ma erano abituati a fare questo tipo di operazione. Diciamo che a loro gli è andata male, ma le hanno fatto anche tanti altri istituti finanziari, hanno fatto operazioni analoghe. Il problema è che la gestione è stata disastrosa e che Banca d'Italia non poteva non sapere, tant'è che Mussari è stato allontanato a un certo punto con un'operazione cosiddetta di moral suasion proprio da Banca d'Italia, perché al posto suo è stato inserito Alessandro Profumo. però per esempio Alessandro Profumo è uno che se n'è andato da Unicredit prendendosi una buona uscita di 40 milioni di euro. Quindi diciamo che alla fine il sistema tollerava questo tipo di operazioni. Nel momento in cui questo tipo di operazioni poi portano a questi a queste conseguenze che non si possono più nascondere, ecco che allora subito parte il balletto del io non l'avevo visto, tu mi avevi nascosto qualcosa. Però sono tutte operazioni che diciamo stavano nell'ordine delle cose, almeno fino a quando c'è stato il crollo di Lehman Brothers. Poi le cose non è che siano cambiate in maniera così radicale, perché poi c'è una sorta di coazione a ripetere da parte del sistema finanziario, tant'è che per esempio l'amministratore delegato di Goldman Sachs, questa è proprio una notizia del Wall Street Journal di neanche della settimana scorsa, è stato beneficiato di 13 milioni di dollari di stock option. Quindi questi, nonostante i disastri che combinano, continuano ad essere pagati in questa maniera. E quindi diciamo così, gli è andata male perché è stata gestita male. Ma poi tanto il concetto è sempre quello: si privatizzano i guadagni, si socializzano le perdite, perché poi di fatto i 4 miliardi di cosiddetti monti bond, insomma, alla fine escono dal debito pubblico italiano e vanno a sostenere questa banca che altrimenti rischiava di fallire. È certo che non è che gli regalano, perché poi il Monte dei Paschi pagherà il 9% di interesse, ma questo lo hanno fatto perché altrimenti l'Europa avrebbe configurato questi 4 miliardi di monti bond come un sostegno alle imprese, cosa che non si può fare. Però di fatto poi in tutta questa situazione ci rimettono sia i contribuenti, naturalmente, perché poi appunto i 4 miliardi comunque escono fuori dalla tassazione, dal debito pubblico, e poi i lavoratori, appunto, in quanto il piano industriale di Monte dei Paschi prevede 4.600 esuberi, la disdetta degli accordi integrativi aziendali. E quindi quando poi ci si ritrova di fronte a queste scelte e si viene a sapere appunto solamente adesso che c'erano 2 milioni di surplus, 2 miliardi di surplus dalla vendita di Antonveneta, Mussari dove li ha messi, questa è una cosa che veniva chiesta dai sindacati del Monte dei Paschi di Siena da anni, cioè quindi non è che sono cose che non si sapevano. E quindi qui è scattato poi la copertura, insomma la catena di Sant'Antonio, che ognuno ha coperto l'altro, insomma, mi sembra sì. Che questo poi sia l'aspetto almeno che viene diradato, perché c'è una grandissima, come tu insomma hai spiegato, e qualcosa di più credo si sia capito in questo meccanismo proprio tecnico, diciamo così, i giornali non te lo fanno capire, perché il sensazionalismo è colpa di quello, è colpa di quell'altro, ma da qui non se ne viene fuori, come ormai ci siamo abituati. E mi sembra che insomma quello che hai detto, almeno io personalmente qualcosa in più ci ho capito, ma se dovessimo tirare insieme, non dico una conclusione perché qui le conclusioni insomma è difficilissimo questo, no? Però ecco, qui c'è un debito, ognuno sta in debito con qualcun altro, insomma, soprattutto nel sistema bancario. Da questo debito non si esce, perché nel momento in cui, prendendo l'operazione che tu hai descritto, per coprire un debito fai altri debiti nella speranza che il differenziale tra le due cose, fai un altro debito per esempio con la Nomura sperando che quello ti dia più, oppure compri degli altri titoli che ti dovrebbero rendere di più, e quindi giocare su questa differenza, perdite, ricavi, è un'operazione a perdere comunque, infinita, che non finisce mai, insomma, a meno che non si decide che si esce dal mercato finanziario, dal mercato dei capitali, quindi dal capitalismo. Beh, comunque anche un effetto della mutazione della natura delle attività delle banche, perché prima le banche prestavano denaro, adesso fanno speculazione finanziaria, cioè prima c'erano le banche commerciali e poi c'erano le banche d'affari. Questa divisione non c'è più. È stata proprio questa commistione che ha poi generato tutte quelle altre situazioni che sono poi arrivate, diciamo così, a maturazione con la crisi finanziaria del 2009. Certo, è che questi aspetti non sono diciamo operazioni di pecore nere, questi sono tutti dentro alla natura di questo sistema di accumulazione finanziaria, quindi non si tratta semplicemente di sbagli o di errori di gestione, perché sono state tutte gestite in questa maniera, non si conosce l'entità dei titoli tossici, per esempio, che sono in giro nel mercato finanziario. C'è un mercato finanziario che non è regolamentato, che è quello del mercato grigio, dove ci sono scambi che superano il valore di tutta la ricchezza mondiale per 3-4 volte. Quindi c'è un sistema che ormai si è messo in movimento, che praticamente è come se fosse diventato autonomo, cioè il capitale finanziario ormai si è staccato completamente dal capitale produttivo ed è diventato una sorta di mostro a sé che ormai non viene più neanche controllato. Quindi tutto questo fa parte di una logica e non è casuale. Poi qui naturalmente si parla, perché siamo sotto elezioni, del ruolo delle fondazioni, e questo assolutamente è anche corretto comunque evidenziare il ruolo delle fondazioni e il ruolo del controllo nel caso specifico del Monte dei Paschi di Siena, del PD sulla gestione della banca. Però è anche vero che la fuoriuscita da questo sistema può avvenire solamente attraverso, per esempio, una nazionalizzazione del Monte dei Paschi, cosa che hanno cominciato a richiedere, cosa che è successa in altre situazioni come la Royal Bank of Scotland, per esempio, che è stata nazionalizzata. E quindi togliere ai privati, diciamo così, questa gestione, intervenire ristrutturando la banca e soprattutto facendo rifare alla banca svolgere il ruolo che dovrebbe fare, cioè quella di prestare i soldi e fare tutto un altro tipo di operazioni diverse da quella della speculazione finanziaria. Bene, credo che insomma qualche sprazzo di luce in più sia stato gettato su questa vicenda. Ti ringraziamo e prego, insomma, ti va bene. Okay, ciao. Ciao.